Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in cui ci occuperemo, ahimè, erano attesi in buona parte, in buonissima parte, ma adesso sono confermati i piani, i tagli, scusatemi, nel piano di Unicredit. Si tratta di 18.200 tagli di personale, di cui 6.900 in Italia. Questo includendo anche la vendita della controllata in Ucraina e la joint venture con Pioneer. Questo porterà a contenere i costi del gruppo Unicredit per 1,6 miliardi. Il gruppo ha chiuso con un utile nei primi 9 mesi dell'anno di oltre 1,5 miliardi, meno 16% però rispetto allo stesso periodo del 2014. Pesano molto sui conti del gruppo sia l'andamento della controllata in Ucraina, 400 milioni di svalutazione, come la conversione in euro dei mutui in franchi svizzeri in Croazia. E comunque ne parleremo. Detto questo, nella giornata di oggi torneremo anche sul tema dell'industria alimentare e di come stia rispondendo a livello europeo a quanto accaduto due settimane fa con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e cioè il fatto che la carne ha proprietà cancerogene. Poi siamo andati a vedere in realtà le carni lavorate senza che l'OMS abbia fatto molti distinguo. C'è stata anche un'iniziativa appunto dei produttori a Bruxelles, e quindi ne parleremo nella logica di non lasciare abbandonato un tema che è un tema di chiaramente benessere in primo luogo, ma proprio perché riguarda la salute non può essere affrontato in maniera così generica e allarmistica, aggiungo io, come è stato affrontato invece dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ancora sul mercato meno 0,20% Milano, più 0,70% Parigi, più 0,40% Francoforte, invariata Londra, e il Dow Jones perde lo 0,20%. Euro su dollaro a quota 1,07, bene la Pop Milano più 6,36, Banco Popolare più 3,70, Anima più 1,90, Emilia Romagna più 1,60, Buzzi Unicem più 1,40, Comuni Polsai l'1,30, Rialzo di Mediobanca l'1,20, quello di Luxottica e di Azimut. Il fronte opposto è rappresentato da Mediaset meno 10%, e ne parleremo. UbiBanca meno 2,70, Iux Net-a-Porter meno 2,30, Saipem meno 1,70, Tenaris meno 1,5 come Exor, Snam meno 1,20 come Fiat. Su Mediaset pesano i conti sono in perdita, in linea con le aspettative, e Mediaset annuncia che arriverà in utile a fine anno. Però al mercato, quello che capiamo, non sono piaciute le indicazioni sulle linee di sviluppo future. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parleremo anche del nostro sistema delle imprese. Ieri il rapporto annuale del CERVED, oggi il rapporto annuale sull'industria italiana, sui settori industriali italiani, per essere più precisi, di Intesa San Paolo e Prometeia. Novità che ricorderanno anche gli altri conduttori, il numero degli sms 349-238-6666 vale anche da oggi e per i prossimi mesi e anni, vale anche per WhatsApp, quindi non è solo per gli sms ma anche per scrivere attraverso WhatsApp. Il numero è invariato, 349-238-6666. Andiamo, dicevo, con le notizie in breve. Partiamo come sempre da quelle di carattere internazionale. In Gran Bretagna continuano i buoni dati sulla disoccupazione, scende al 5,3%, è la più bassa da 7 anni a questa parte. Il numero degli impieghi è salito di 177.000 unità nell'ultimo mese rilevato. Per quello che riguarda la Germania, invece, le stime dei saggi economici sulla crescita prevedono un più 1,7% nel 2015, un più 1,6% nel 2017. Secondo i consulenti, la Germania può affrontare e superare la sfida dell'integrazione dei profughi con costi prevedibilmente sostenibili. Chi non se la passa bene invece è il colosso energetico tedesco E.ON, che ha registrato una perdita record di quasi 5 miliardi e 700 milioni nei primi 9 mesi dell'anno, dovuta soprattutto a un aggiustamento dei conti. L'impresa, cioè il gruppo E.ON, ha però confermato le stime per un utile operativo fra i 7 miliardi e 7 miliardi e mezzo. E poi invece l'ufficio federale tedesco per la motorizzazione, cioè quella che da noi si chiama motorizzazione civile, ha fatto notare che non ci sarebbe solo Volkswagen ad avere violato i valori delle emissioni di CO2, ma anche altre imprese automobilistiche, riferendo appunto di un test eseguito su veicoli di altre case produttrici. L'ente non ha ancora divulgato i nomi delle case, però sta verificando le emissioni di circa 50 modelli di diverse case automobilistiche. Vedremo se lo scandalo si allargherà. Allora, vedo che qualcuno sta chiamando il numero di WhatsApp. Scusatemi, siccome ce l'abbiamo qui il terminale, è inutile chiamare il numero di WhatsApp. È il numero che vale come SMS, ma non è che rispondiamo. Ripeto, 349-238-6666, sia per gli SMS che per scrivere su WhatsApp. C'è chi scrive: era ora, finalmente ci siete, ho capito, meglio tardi che mai, dai. Allora, mettiamo un'icona, sì, metteremo anche l'icona della radio, lo dico ai tecnici in regia, metteremo l'icona su WhatsApp, non possiamo mettere quella di ogni singolo programma, visto che i programmi cambiano ogni ora e mezzo, metteremo l'icona di Radio 24. Adesso però vorrei andare avanti con il resto del programma e continuare con quello che riguarda invece alcune dichiarazioni del numero uno della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Il governatore, infatti, a una conferenza a Londra ha detto: attenzione, i timori che si possa innescare una guerra tra valute, soprattutto tra dollaro e euro, sono timori mal riposti e infondati. L'ipotesi di un taglio dei tassi sui depositi sarà fra i punti in discussione nella prossima riunione della Banca Centrale Europea a dicembre. E l'effetto del piano di acquisto di titoli, quindi il quantitative easing portato avanti dalla BCE, può dare un significativo contributo alla crescita di produzione e di prezzi di oltre un punto percentuale. Questo nel giorno in cui per la prima volta anche il bot a 12 mesi, per la prima volta nella sua storia, il bot più classico che c'è, quello a 12 mesi, va in rendimento negativo dallo 0,023 dell'asta di ottobre, eravamo già a zero, adesso però ufficialmente negativo, meno 0,03%. E ciò nonostante il Tesoro ha collocato tutti i 6 miliardi di bot a un anno in offerta. La domanda, pensate quanta voglia, quanta liquidità c'è in giro e quanta voglia di metterla da qualche parte, nonostante il rendimento negativo. La domanda è stata di 1,8 volte l'offerta e contro le 1,6 della precedente, quindi è anche aumentata la domanda rispetto all'offerta. Si accetta di non guadagnarci, anzi di perderci, perché stiamo parlando sempre di rendimenti lordi, ma almeno si mettono i soldi in titoli di Stato. Ripeto, come già dicemmo a suo tempo, quando arrivarono i primi rendimenti negativi, è cambiato tutto in soli 4 anni, visto che nel 2011 ragionavamo sulla tenuta del debito, il rischio default, lo spread a 560. Oggi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan da Londra cita comunque il dato sulla crescita e dice: guardate, l'Italia cresce più di altri paesi e crea lavoro più di quanto atteso. Quindi l'uscita dalla crisi non è un fatto episodico, ma è un fatto strutturale. L'Italia cresce, cresce più di altri paesi, crea lavoro di più di quanto atteso, è il segno che l'uscita dalla crisi non è un fatto episodico ma è un fatto strutturale, e io penso in gran parte grazie alla politica del governo. Riguardo alla flessibilità legata alla clausola per l'immigrazione, a che punto siamo? È un tema rimandato probabilmente a primavera, che ovviamente riguarda tutti i paesi o molti paesi, compresa l'Italia naturalmente, ma per adesso ancora non è stato deciso nulla di preciso. Prima sperimentazione dei WhatsApp, se ne stanno arrivando così tanti che sarà difficile seguirli tutti. Comunque, per favore, non mandate anche i test di prova, se no oggi veramente impazziamo e torniamo al piccione a questo punto, o al telefono senza fili. Andiamo avanti con la legge di stabilità per le regioni del sud. Arriverà in manovra una decontribuzione rafforzata. Ecco un altro che sta chiamando su WhatsApp. Oh, concetto che si possono solo scrivere messaggi non passa. Poi vedo ste facce che appaiono di chi chiama. Dicevo, per le regioni del sud arriverà nella manovra una decontribuzione rafforzata per i nuovi assunti e un credito d'imposta specifico per gli investimenti. Lo ha ipotizzato, ma soprattutto anticipato il capogruppo PD in Commissione Bilancio del Senato, Giorgio Santini. Saranno inseriti in uno o più emendamenti del relatore. Salta però la proposta di un maxi ammortamento al 160%. Poi invito oggi a leggere sul Sole 24 Ore l'intervento del commissario, che è rimasto alla revisione della spesa. Roberto Perotti se n'è andato, ha detto che non si sentiva più utile. Peccato, perché ha costruito una sua carriera ricordando dove si possa e si debba tagliare. C'è tutta questa polemica sul sostanzialmente alcuni incentivi dati al mondo delle imprese, ma in realtà, se ben ricordiamo, il lavoro fatto da Bondi e poi soprattutto da Cottarelli si andava a tagliare soprattutto nelle partecipate, nel modo di fare acquisti nella pubblica amministrazione. Comunque oggi Gutke, tra le altre cose, dice: attenzione, la revisione della spesa ha fruttato 20 miliardi in 2 anni. La Gran Bretagna, parte della spending review, ha ottenuto in 5 anni lo stesso risultato. Considerando gli 80 euro come una riduzione di tasse e non una spesa, la spesa corrente è scesa in 2 anni di oltre un punto del PIL, dal 43,2 al 40, del 2013 al 42,1 del 2015. Nel 2016 scenderà ulteriormente al 41,4%. Ci permettiamo di dire a Gutgel, che riavremo in trasmissione, che il tema è proprio questo: cioè, se ci limitiamo a dire spendiamo un punto percentuale di PIL in meno, va bene, ma nessuno ci dà garanzie su come si è arrivati a spendere quel punto percentuale di PIL in meno. Perché se io mantengo 8.000 partecipate dagli enti locali, di cui 3.000 con meno di 6 dipendenti e centinaia senza un bilancio, vuol dire che quella riduzione di spesa l'ho fatta magari rinunciando ad acquistare beni e servizi che servivano. Se continuo a mantenere 33.000 stazioni appaltanti, vuol dire che quella riduzione di spesa l'ho ottenuta continuando a pagare le siringhe, i cerotti, il plasma in 28 modi diversi in questo paese, le fotocopiatrici, le stampanti uguali. Cioè l'ho ottenuta in altri modi. È questo che non convince. Avrebbe avuto più senso presentare una bella lista della spesa per dire: qui abbiamo tagliato, qui abbiamo rivisto, qui non abbiamo tagliato né rivisto perché andava bene così. Così si fa la spending review, ci permettiamo di dire, e così l'hanno fatta anche in Gran Bretagna. Allora, intanto, visto che parliamo di piccole e medie imprese, parliamo di piccole e medie imprese, di spending, di quant'altro, oggi è stata presentata a Roma Italy Frontiers, che è una piattaforma online nata dalla collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, i giovani imprenditori di Confindustria e Union Camere, che riunisce tutte le camere di commercio italiane. È disponibile anche in inglese, ci mancherebbe. È raggiungibile all'indirizzo startup.registroimprese.it. L'indirizzo dovrebbe essere questo, però nasce con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità internazionale alle imprese italiane che hanno raccolto la sfida dell'innovazione. Sentiamo in realtà che cosa servirà dalle parole del presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Marco Gai. Siamo stati fra i promotori della realizzazione di questa piattaforma perché è un primo passo importante verso lo sviluppo di un ecosistema, ancora maggiormente si sta sviluppando in Italia, e questa può avere la potenza di una vera finanziaria che guarda al futuro e che crea la partnership fra piccole e medie imprese e start-up, creando quindi un ecosistema che ci permetterà di crescere e valorizzare ancora di più il nostro Made in Italy. La legge di stabilità secondo lei si fa abbastanza per le piccole e medie imprese, per le start-up? La legge di stabilità innanzitutto mantiene, per quanto riguarda le start-up, che cosa c'era in passato, e quindi è diventata una forma strutturale di sostegno alla creazione di impresa. Per le piccole e medie imprese c'è il superammortamento, che è sicuramente un'opportunità per chi vuole investire, e non dimentichiamo che finalmente togliamo l'IMU sugli imbullonati, che per noi imprenditori, per le nostre imprese, rappresentava un problema oltre che un'ingiustizia palese per chi vuole investire e far crescere le proprie imprese. Dopodiché bisogna concentrarsi ancora di più sugli investimenti e su quello che sono favorire l'innovazione e la ricerca, perché sono temi centrali per innovare e far crescere la nostra azienda. Adesso parliamo delle nostre piccole e medie imprese, dei distretti industriali, dei settori industriali, però, e poi parleremo di Unicredit, anzi facciamo così, parliamo di Unicredit subito con i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche da Radio Dimensione Suono, poi torneremo sul piano industriale, visto che però i 100 secondi oggi sono dedicati proprio al piano industriale di Unicredit, poi arrivo all'ANAS e a quanto sta dichiarando la dama nera. Ripeto, le dame sono persone degne di rispetto e degne anche di uno status. Perché chiamarla dama nera una che pigliava le mazzette? La chiamava in un altro modo, no? La dama è un titolo che è elogiativo nei confronti di una donna. Comunque, Alessandro Praterotti sul piano presentato da Unicredit oggi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Unicredit, la più grande banca italiana in quanto a dimensioni, entra in cantiere. Il gruppo bancario e finanziario di Milano ha varato il nuovo piano industriale al 2018, un piano totalmente autofinanziato, ha sottolineato la stessa banca, facendo intendere che per realizzarlo non sono previsti aumenti di capitale. Come si sa, a causa della BCE e delle nuove regole sulla solidità bancaria, i nostri istituti sono stati infatti sottoposti a una serie di aumenti di capitale che sicuramente hanno un po' inclinato il rapporto con i soci, e chiedere nuovi soldi è sempre più difficile. Comunque sia, il documento strategico approvato dalla banca aggiorna gli obiettivi al 2018 e si basa su 5 pilastri. I primi due, quelli da cui si attende ritorni maggiori, sono la riduzione dei costi operativi, 1,6 miliardi di risparmi attesi, 18.200 gli addetti che usciranno dalla banca, di cui 6.900 in Italia. In altre parole, ancora una volta, purtroppo, per far sì che la banca sia competitiva, il settore bancario e i dipendenti dei gruppi bancari saranno probabilmente quelli che pagheranno il prezzo più alto in termini di licenziamenti e di uscite dal lavoro. Ma non ci saranno soltanto licenziamenti, la cessione, la ristrutturazione del 2016 di business poco redditizi è l'altro cardine di questa operazione. In particolare sarà tutto ristrutturato, tutta l'attività bancaria in Austria, parte in Germania e tutto il settore del leasing. Come dire, in momenti difficili, anche in momenti di ripresa come questi, lo sforzo delle banche è quello di cercare, purtroppo anche attraverso il costo sociale enorme, di recuperare redditività e, associando la redditività recuperata ai soldi, diciamo, ancora molto facili che le banche riescono a ottenere dalla Banca Centrale Europea, far sì che si rimetta in moto non soltanto il mercato del credito alle famiglie e alle imprese, ma anche la remunerazione di quel capitale quotato in borsa su cui hanno puntato gli azionisti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, in questa prima giornata di WhatsApp in diretta, il per ora il premio lo vince un ascoltatore che prima chiama bloccando tutto il sistema, poi scrive pure scusatemi, è perita la chiamata. Basta, abbiamo capito, grazie, non capiti più. Allora, sorrido, a parte per gli epiteti con cui vorreste chiamare la Dama Nera, no, ma proprio che Dama, non mi piace Dama, Dama Nera potrebbe essere una dama dell'alta società in lutto, ma questa racconta la signora Antonella Accroglianò, che nessuno conosceva, questo te la dice lunga poi sul perché sia difficile fare anche la spending review, perché poi sono i capi dipartimento, i direttori di dipartimento, i capi di gabinetto che non hanno volto, non hanno nome, cerchiamo di farlo quando facciamo la nostra poco invidiabile classifica che bloccano tutto, perché dietro questa inefficienza della pubblica amministrazione, delle volte c'è solo inefficienza, delle altre volte ci sono mazzette, caro Presidente del Consiglio. Ecco perché è così importante, se vuoi ridurre le tasse, non solo ridurle a deficit, ma con una spesa pubblica più produttiva, partendo dai 180 miliardi di acquisti di beni intermedi, e non dicendo semplicemente quanto è calato la percentuale di spesa pubblica in rapporto al PIL, perché non funziona così, diciamo con massimo rispetto anche a Joram Gutgeld, perché tu puoi arrivare agli stessi risultati tagliando in maniera lineare facendo danni con ospedali che hanno difficoltà a avere l'attrezzatura, mentre continuiamo a avere 33.000 costi di fotocopie e fotocopiatrici diverse. Così non va, la spending review si fa nel dettaglio. E poi abbiate pazienza, lo dicemmo 6 mesi fa: no, non c'è problema, arriveremo a tagliare 10 miliardi. Si è visto che è una bufala. Perotti è una persona seria, anche Cottarelli è una persona seria. Il Presidente del Consiglio, se vuole, diciamo, darci una mano, ammesso che voglia, deve iniziare a stabilizzare, oltre che i precari, i consulenti all'economia che ha, li stabilizzi con un Jobs Act. Ruotano come delle trottole, ne abbiamo contati non so quanti in questi anni. Stabilizzi anche i suoi consulenti all'economia, così sappiamo quali sono gli interlocutori. Allora, torniamo invece alla Dama Nera, perché oggi Antonella Accroglianò dice: non c'è imprenditore che non possa dire che non ha pagato per avere l'aggiudicazione di una gara. Allora, siccome questo può essere anche un millantare, deve essere più precisa. Questo l'ho detto nel corso dell'interrogatorio lo scorso 3 novembre, ha riconosciuto le proprie responsabilità. Ammetto, vabbè, capirai, c'erano filmati, audio, di tutto. Comunque, ammetto, ha detto di fronte ai PM Francesca Loi e Sabina Calabretta, ammetto gli addebiti per i fatti indicati nell'ordinanza cautelare. E poi è andata avanti raccontando che non c'era nessuno che non sapesse di questi pagamenti. Allora, se fosse vero, bisognerebbe azzerare, diciamo, l'intero vertice dell'ANAS. Faccio notare che il ministro Delrio le ha risposto: le gravi affermazioni riportate in merito a un incontro tra il ministro Delrio e Meduri, altro coinvolto nello scandalo, le gravi affermazioni riportate che riguardano il ministro Delrio riportate dall'ANSA sono false e prive di fondamento, il ministro si tutelerà nelle sedi opportune. Faccio notare che nel giro di tangenti all'ANAS c'è anche il caso di Oreste De Grossi, funzionario dell'ANAS in carcere per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, interrogato. Lui era responsabile del servizio incarichi tecnici dell'ANAS, ha ammesso di aver ricevuto la mazzetta dall'imprenditore Bosco della Technis, e io avrò percepito circa 65.000 euro in tutto di mazzetta, li ho spesi subito comprando trenini di cui faccio collezione, francobolli e vestiti avrò speso 10.000 euro di francobolli e così, se per caso dovesse essere condannato, potrà scrivere a lungo con chi è fuori. Cosa devo dire? Con i modelli di trenini che costano 300 euro l'uno, ne avrò comprati una decina. Ma boh, c'è neanche più la tangente, capito, per motivi di bisogno, perché non arrivi a fine mese, perché devi comprare i trenini. Mo' i trenini li fai in carcere, però devo stare zitto su questo. Meteo, pubblicità. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. No, non torno sul tema della Dama Nera, di questo qui che collezionava francobolli e trenini. Chi ha voluto capire la battuta l'ha capita. Per il resto, i francobolli forse gli serviranno per scrivere da fuori carcere. Allora, andiamo invece al rapporto Prometeia Intesa, che come ogni anno va a analizzare i settori industriali. Un dato non è brutto quest'anno, anzi, più 1,9% nel 2016, più 2,3% nel 2017 a prezzi costanti, con grosse differenze però tra i vari settori industriali. Dottoressa Alessandra Lanza, partner appunto della società di consulenza Prometeia, buonasera. Buonasera. Allora Lanza, mi dica una cosa, noi abbiamo visto anche dei dati di ieri, dell'altro ieri, che l'apporto più grosso sta arrivando dal settore automotive complessivamente. Corretto, nella produzione, corretto. Nella produzione industriale. Corretto è il caffè, se vuoi. Però questo, ecco, no, gli inglesi, io abolisco gli inglesismi, ma abolisco anche, diciamo, le traduzioni dall'inglese in italiano. Però voi vedete anche per il 2016 e il 2017 un andamento analogo? Sì, vediamo un andamento analogo, in cui il settore auto rimane di gran lunga il settore che ha l'accelerazione più ampia anche nel 2016 e nel 2017, seguito da altri settori dominati da multinazionali come farmaceutica e largo consumo, e sostenuto da una ripresa dei consumi interni che continua a proseguire nel 2016 e nel 2017, e anche da una ripresa degli investimenti. E questo in generale. Sui settori oltre l'automotive, quali sono gli altri settori classici del Made in Italy, poi magari anche non così conosciuti nel Made in Italy, che voi vedete con maggior tassi di crescita? Allora, come accennavo, insieme all'automotive anche farmaceutica e largo consumo. Sì. Vediamo comunque estendersi questo recupero della domanda interna, sostenuto anche in prospettiva sempre di più nel, diciamo, da metà 2016-2017 dagli investimenti anche a elettronica, meccanica ed elettrotecnica, mentre vediamo soffrire ancora la filiera delle costruzioni, quindi anche voi, tutti i prodotti del sistema casa legati alle costruzioni, come per esempio gli elettrodomestici, che rimangono il settore che soffre di gran lunga di più. Quindi, i mobili, scusi, faticano anche. Ecco, mobili, elettrodomestici, quindi non è vero che tutti sostanzialmente i beni durevoli, come si chiamano, elettrodomestici, mobili, automobili, stanno ripartendo alcuni beni durevoli e altri no. Sì, stanno ripartendo i beni durevoli non legati al sistema casa, sostanzialmente. Vero è che sicuramente il perdurare degli incentivi sul settore, per esempio, dei mobili ha sostenuto in qualche misura la domanda, cioè i ritorni sono stati positivi, non è ancora sufficiente a vedere una ripartenza vivace del settore. Questo, dicevamo, al di là poi delle componenti interne, però la domanda vera che molti ci stanno ponendo, sia su WhatsApp che sull'SMS al 349-238-6666, è la seguente: ma le variabili che portano a questa ripresa dei settori produttivi sono ancora quasi tutte esterne o esogene, come dice chi ha studiato, o iniziano ad essere anche interne e quindi endogene? No, quindi... mi verrebbe da dire proprio il contrario, anzi, sul 2015 quasi tutta la crescita è fatta da un recupero dei consumi interni, l'export non è stato vivace nel 2015, anzi è stato meno dinamico rispetto alla domanda mondiale. Questo per via dei BRICS, che non sono più BRICS. Esattamente, esattamente. È stata molto più dinamica la componente delle importazioni, quindi il saldo netto per noi è negativo, e così vediamo anche il 2016-2017 con una componente di domanda mondiale che, diciamo, arrivando al 2017 dovrebbe normalizzarsi e tornare sostenuta e quindi ridare fiato al nostro export. Però ad oggi, sia 2015 sia 16-17, il grosso della crescita viene finalmente dal mercato interno. Sì, tra l'altro uno potrebbe dire, vedo una battuta molto sofisticata, broken bricks, giocando sull'inglese, mattoni rotti. Sì, ne abbiamo parlato più volte, sono abbastanza broken bricks, sono abbastanza mattoni rotti gli ex. Con l'unica eccezione dell'India, dove però noi ci siamo pochissimo, perché certo, conta lo 0,8% del nostro export, quindi conta veramente poco. Resti ancora con noi, dottoressa Lanza, perché ho ancora un paio di domande da farle. 349-238-6666 per sms e whatsapp, che bello poterlo dire. Dunque, qualcuno mi chiede sull'ananas e ciucci, vabbè, poi parliamo anche del pesce e della testa del pesce. Intanto, traffico. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, dottoressa Lanza, nel vostro rapporto, dicevo, tutti i settori tranne quelli legati alla casa, però voi fate notare che anche la redditività dovrebbe tornare a crescere beneficiando soprattutto del calo dei costi degli input. Che vuol dire? Sì, allora la redditività torna a crescere su due filoni. Uno, il calo dei costi delle materie prime, che fino a che i BRIC, soprattutto la Cina, rimarranno in una fase di difficoltà di crescita, è verosimile che rimangano su un percorso di decelerazione, quindi abbiamo input meno costosi importando noi tutte le materie prime. E l'altro, beneficiano anche del deprezzamento dell'euro e quindi riescono a ritoccare, questo non tutti, non è un atteggiamento generalizzato, però diciamo quelli più bravi riescono a ritoccare i listini e quindi, facendosi pagare un premium price, riescono a fare più redditività. Alcuni hanno scelto invece la strategia di aumentare le quantità, per cui l'aumento di redditività è importante, ma non è il potenziale, si potrebbe fare anche meglio. Però anche voi riconoscete, lo spiego a tutti, cioè un conto è che l'export pesi meno nella ripresa economica del paese, e questo è innegabile, cioè quest'anno, ed è anche più salutare, si sono riaffacciati i consumi interni, anche perché l'export, complice il rallentamento di Cina, Brasile e Russia, non ha fatto dei grandissimi numeri. Altra cosa però, dottoressa, è non riconoscere, e voi lo fate, che le condizioni esterne, non l'export, stanno avvantaggiando molto, ecco perché devi fare riforme, tagliare la spesa, riformare la pubblica amministrazione adesso, cioè quando hai l'euro a 1,07, i tassi bassi e i tassi bassissimi, e il petrolio a 50, quindi non è che non contino le condizioni esterne nel far ripartire come domanda interna alla nostra economia, se posso legarla così. Assolutamente sì, e una considerazione in più che aggiungerei è che a questo livello di tassi non c'è più scusa per non investire, cioè nel momento in cui la domanda interna recupera c'è più fiducia, tassi bassissimi, prezzi anche ragionevolmente bassi, dato il contesto economico mondiale, bisogna tornare a investire, ora o mai più. Corretto, va bene? Benissimo. Grazie, dottoressa Alessandra Lanza. Della società di consulenza Prometeia. Oh, testa, corretto inglese, correct inglese, corretto italiano, no, è una, un modo come quelli che dicono supportare, ma dato support in inglese, in italiano sarebbe giusto, non dici corretto, giusto, è giusto, poi puoi dire è corretto, ma non corretto, correct è in maniera inglese, ma dove, non stiamo occupando, mi sembra che il paese abbia altri problemi che l'eccesso di traduzione dall'inglese. Andiamo alla borsa, meno 0,26% Milano, ah sì no, ciucciucci. Beh, adesso vediamo, perché se la, la cosa nera, io non la voglio chiamare dama, la signora, insomma così, la, la dirigente nera dell'ANAS dice che tutti gli, tutti gli imprenditori pagavano le tangenti, la domanda è, ma dov'era Ciucci che è stato per 19 anni all'ANAS? La risposta può essere, era intento a risolvere il contenzioso, il Ciucci presidente con il Ciucci direttore generale, l'abbiamo raccontato molte volte, 500.000 euro di buonuscita per non essere stato avvisato da se stesso che veniva, diciamo, liquidata la sua posizione da dirigente. Però insomma, adesso al di là delle battute, ma la responsabilità dei capi azienda esiste in questo paese o esiste solo quanto a bonus e buonuscita? Chiedo, chiedo. Meno 0,26 Milano, più 0,80 Parigi, più 0,70 Francoforte, più 0,35 Londra, invariata l'America, euro a 1,07,36, in evidenza oggi Mediaset in negativo e alcuni bancari in positivo. Che si chiamano Popolare di Milano più 6,50, Banco Popolare più 3,90, Pop Emilia Romagna più 2,20, Anima Holding più 2 e poi Unipol 6 più 1,5, Unipol più 1,33, Mediobanca più 1,30 e tra i non bancari abbiamo Buzzi Unicem più 1,70 e Azimut, scusatemi, Luxottica più 1%. Poi c'è il caso Mediaset, meno 9,45%, nettamente più forte il calo di Mediaset rispetto agli altri, Yux Net-a-Porter meno 2,80, un po' di realizzi dopo la crescita di questi giorni, Ubibanca meno 2,5, Tenaris meno 1,60, Saipem meno 1,30 come Snam, Exor meno 1,20, Atlantia meno 1 come Enel. Eleonora Micheli, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, Leonora, partiamo da Mediaset, poi arriviamo dopo il GR24 al resto. Sì, Mediaset è andata molto male, peraltro è peggiorata nel corso della giornata e pochi minuti prima del termine delle contrattazioni è arrivata a perdere il 10%. Non è piaciuto il fatto che la società abbia indicato, non sia stata molto aggressiva sulle previsioni per la raccolta pubblicitaria, in effetti dovrebbe fare un po' meglio del mercato, solamente l'1% in meglio di come andrà il mercato. Gli analisti si aspettavano di più e soprattutto per questo diciamo hanno punito le azioni più che per i conti che sono risultati abbastanza in linea con le attese, sì, e che hanno però visto perdere la società del Biscione 35,8 milioni in 9 mesi. L'azienda comunque ha detto che chiuderà il 2015 inutile. Allora Eleonora, resta con noi dopo il GR24 gli altri titoli. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracomitalia per competere nel mondo. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. State ascoltando un programma offerto da... SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. 8:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Eleonora Micheli, al di là di Mediaset, e poi adesso parleremo di Unicredit, invece un po' di sofferenza su alcuni bancari, ma bene le popolari oggi, come ricordo. Bene le popolari, perché innanzitutto continua la speculazione, si scommette sui futuri matrimoni che potrebbero profilarsi all'orizzonte. Al di là di questo, poi Banco Popolare, BPM e UBI hanno pubblicato i conti di bilancio, poi siamo nell'attesa in serata anche di quelli di Biper. In particolare sono state premiate le Banco Popolare più 3,88% e le BPM più 6,5%, che hanno mostrato risultati in miglioramento. Per dirla tutta, BPM avrebbe registrato un utile in calo del 7,8% a 202 milioni rispetto all'anno scorso, quando però aveva incassato la plusvalenza per la cessione di Anima alla società di gestione. Invece, non considerando questa operazione straordinaria, l'utile sarebbe salito del 70%, quindi i conti sono piaciuti molto agli analisti, e poi BPM alla fine rimane la popolare più corteggiata di tutti. Invece UBI è andata male, meno 2,47%, in verità l'utile è salito di oltre l'8% a 162 milioni, ma gli analisti si aspettavano risultati ancora più brillanti e così hanno punito le azioni con questo calo di oltre il 2%. Allora, per quello che riguarda poi i titoli minori, faccio notare che mi chiedete del Lusso. Oggi il Lusso era abbastanza al palo, Ferragamo più 0,37, Luxottica più 1. Però appunto Juxentaporte meno 2,80 e altri titoli TOZ meno 0,70, ma soprattutto c'è stato Brunello Cucinelli, se ho ben visto, che un po' ha diffuso dei conti che non sono così piaciuti al mercato nei primi 9 mesi. I ricavi sono in crescita del 14%, l'utile aumenta dell'1,2% a 25,7 milioni. Sì, in effetti oggi Brunello Cucinelli non è andato così bene, le azioni sono rimaste deboli, il mercato forse si aspettava di più, ma soprattutto il settore del lusso rimane un po' nell'occhio del ciclone, perché si teme il contraccolpo delle vendite in Cina, soprattutto oggi, giorno in cui invece è emerso che i consumi cinesi nel mese di ottobre hanno ripreso a prendere quota, le vendite al dettaglio sono infatti aumentate, non solo oggi la giornata delle vendite online in Cina è stato già registrato un record. Andiamo sui migliori e peggiori in assoluto. Astaldi meno 17,60, IKF meno 12, Mediaset abbiamo detto, Vivendi meno 6,30, fronte opposto Pop Milano, lo raccontavamo, più 6,50, De'Longhi più 4,70, Holdcon più 12%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Restiamo in tema di borsa però, ma per parlare del gruppo Unicredit. Allora, ricordo il numero 349-238-6666 per scrivere sia gli sms che su WhatsApp. Oggi siamo i primi a sperimentarlo, anche Giannino e Genta, Pardo e Capuano l'hanno sperimentato. Comunque il numero per WhatsApp resta quello per gli sms, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parliamo di Unicredit, ma non per l'andamento in borsa, 0,08% è il titolo invariato, ma perché ha annunciato, in realtà era molto atteso, già erano uscite molte indiscrezioni, un piano che al 2018 prevede 18.200 tagli al personale, di cui 6.900 in Italia, includendo la vendita della controllata in Ucraina e la joint venture con Pioneer. Riduzione dei costi in aggiunta per 1,6 miliardi. Ristrutturerà o chiuderà o venderà entro la fine del 2016 tutti i business a bassa redditività. L'obiettivo dell'utile è 5 miliardi e 300 milioni. I primi 9 mesi hanno fatto meno 16% nell'utile, 1,5 miliardi l'utile. Pesano appunto 400 milioni di svalutazione della controllata in Ucraina e la conversione in euro dei mutui in franchi svizzeri in Croazia. Ringrazio Marco Ferrando del Sole 24 Ore per averci raggiunto in collegamento. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Sentiamo anche la FABI, uno dei più grossi sindacati che raggruppa i bancari, sul piano di Unicredit. La voce è del segretario generale Nando Silleoni. Noi abbiamo un accordo che è stato sottoscritto nel 2014 con scadenza 2018, dove erano previsti 5.100 esuberi. Di questi 5.100, 2.400 sono i lavoratori che con i prepensionamenti volontari già sono usciti. Ne rimangono 2.700. Rispetto a questi 2.700, la novità è rappresentata da altri 540 esuberi che l'azienda vorrebbe concordare con le organizzazioni sindacali. Quali sono le criticità del piano? Ci sono due considerazioni, una di carattere politico generale, uno di carattere politico che riguarda le relazioni sindacali. Quella di carattere politico generale, questo più che un piano industriale, è un ridimensionamento politico, organizzativo e finanziario del gruppo, perché non c'è una parola, non c'è un progetto su un effettivo rilancio del gruppo. Per quanto riguarda invece la considerazione di carattere politico sindacale, noi fino ad oggi abbiamo gestito gli esuberi con prepensionamenti volontari e non ci sposteremo di un centimetro da questo. Quindi se l'azienda vuole raggiungere i numeri assolutamente deve concordare con le organizzazioni sindacali aziendali delle forme per incentivare economicamente le uscite per raggiungere i numeri che oggi hanno presentato. Allora, Marco Ferrando, insomma, cerchiamo di far chiarezza sui numeri, perché alcuni numeri erano già usciti. Quanti sono gli esuberi in più in realtà, Marco? Ma in realtà è stata fatta oggi una somma che nelle settimane che hanno preceduto la giornata di oggi non era stata fatta, nel senso che si parlava di questi 12.000 esuberi in Italia, ma anche molti in Austria e Germania, dove la banca è ancora per certi aspetti sovradimensionata, ai quali di fatto si aggiungono altri 6.000 che non chiamerei esuberi ma che chiamerei uscite, nel senso che saranno dipendenti che usciranno con la vendita della banca che controllata in Ucraina, che Unicredit sta cedendo a un gruppo russo, e gli altri che usciranno con Pioneer che uscirà presto dal perimetro della banca, visto che tra l'altro proprio oggi è stata confermata l'intesa con Santander. Quindi di fatto i numeri, diciamo che è una somma che si poteva fare, certo 18.000 è un bel numero. Vabbè, fa impressione. Ma la parte italiana, che chiaramente interessa ai sindacati italiani, è aumentata oppure no rispetto a quanto avevamo raccontato in queste settimane? Ma è aumentata di qualche centinaio, effettivamente anche noi facevamo così un po' le prime somme e ci tornavano più o meno i numeri che dava Sileoni prima, nel senso che sul ridimensionamento sia della rete retail, quindi le filiali, che dei corporate center, quindi diciamo le strutture per le imprese, effettivamente c'è qualche centinaio in più. Non dimentichiamo però che nei numeri di oggi Unicredit ha anche detto che nel 2015 verranno postati 1 miliardo di costi proprio a copertura delle uscite, quindi è possibile che ci sia margine per la copertura di cui parlava Sileoni, lo scopriremo credo forse anche già stasera, visto che Ghizzoni sta proprio parlando con i giornalisti, quindi mi sono allontanato un attimo, magari risponderà a questa domanda. Allora, nel frattempo le sofferenze sono in discesa, quindi i crediti non più esigibili sono in discesa a 50,6 miliardi e poi c'è la chiusura di 800 filiali entro il 2018 in Italia, Germania e Austria. Sì, è un percorso che va avanti da tempo, che verrà accelerato perché sappiamo che ormai le filiali sono un costo più che un'opportunità per le banche, chiudono dovunque sia possibile. C'è anche una novità nel piano di oggi, di cui probabilmente sentiremo parlare nei prossimi mesi / anni, cioè la nascita di una nuova banca completamente digitale. Ha fatto qualcosa di simile il Montepaschi con la banca Widiba, e sembra che anche Unicredit voglia muoversi in quella direzione lì, per ora si chiama Buddy Bank e dovrebbe essere una banca completamente mobile, quindi stile... Come si chiama per ora? Buddy Bank. Buddy? Buddy, sì. Ok. Scopriremo il significato, credo. No, è che bad bank, attenzione, diciamo, ai refusi. No. Va bene, ti lascio con Ghizzoni, poi domani leggeremo sul Sole e ne parleremo anche con Ghizzoni, ce l'ha promesso dopo il roadshow, la presentazione di questo piano industriale che durerà 4-5 giorni. Grazie intanto Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Oddio, oggi siete più interessati alcuni ascoltatori al fatto che c'è WhatsApp che a quello che diciamo in trasmissione. Vabbè, alcuni mi chiedono della caviglia, vabbè. Altri vogliono sapere se si possono mandare le foto. Sì, ma a che pro? Adesso magari nel programma che segue, la Zanzara, però non oso pensare. Ma questo programma si occupa di economia. Che foto avete mandato? La busta paga, toh. Traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. E 20 minuti, allora buddy in inglese vuol dire compagno, amicone, compagno, siamo d'accordo, quindi banca compagnuccia, banca compagno, va bene, non c'è nessun problema. Mi fanno anche notare alcuni ascoltatori su WhatsApp al 349-238-6666 che nel marketing la doppia prima lettera ha un effetto positivo sulla memoria, non lo sapevo. Non si smette mai di imparare. Allora invece vediamo di capire un'altra cosa e che effetto positivo sta ottenendo l'iniziativa del mondo alimentare europeo dopo quello che è successo con l'OMS. Ricordate l'allarme dell'OMS, a mio avviso, l'ho detto subito, fatto in maniera un po' pasticciata, nel senso che va benissimo dire che la carne, che un eccesso di utilizzo di carne lavorata ha effetti cancerogeni, devi poi spiegarlo bene e devi soprattutto evitare che questo venga associato da un lato a altre componenti cancerogene, penso al fumo di sigaretta. L'OMS dice che ha il 18% in più di possibilità di sviluppare alcune forme cancerogene mangiando più di 50 grammi al giorno. Faccio notare che da fumatore non dovrei dirlo, ma insomma, che la sigaretta dà 400% di possibilità in più di ammalarsi di tumore alla gola di cancro, alla gola di cancro al polmone. E poi non distingueva, a nostro avviso, tra carne e carne. Ora sono tutte carne lavorate, però inutile girarci attorno, tra una carne piena di conservanti, di grassi e quant'altro e altre carni di maggior pregio lavorate, penso al nostro prosciutto, sì, penso al nostro prosciutto crudo che dovrebbe avere come unico conservante il sale, ci sarà qualche differenza. Comunque so che c'è stata un'iniziativa anche a livello europeo, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, che cosa avete chiesto all'OMS che, diciamo, nella sua storia emette con una certa frequenza anche raccomandazioni con bassa o molto bassa evidenza scientifica? Cioè, nessuno sta dicendo che mangiare tanta carne faccia bene, eh? C'è una dieta mediterranea, una piramide alimentare che molte volte abbiamo raccontato, ma voi cosa avete chiesto a livello di posizione anche europea? Stiamo valutando di avviare un'azione legale risarcitoria di danni nei confronti dell'OMS e non solo per la carne, ma perché questa incidente della carne di cattiva comunicazione, come la stessa OMS ha riconosciuto aver fatto, viene dopo lo zucchero, adesso le carni, poi di nuovo il caffè, quindi sta venendo fuori che l'OMS si muove in assenza per sua stessa ammissione di basi scientifiche solide. Quello che è successo con la carne è indicativo, sono stati anticipati dei risultati di una ricerca ancora non fatta e lo stesso rappresentante dell'OMS proprio ieri si è difeso nella commissione ENVI del Parlamento europeo dicendo che affideranno ad un nuovo panel indipendente una riflessione su che cosa in effetti questi studi volessero dire in un consumo equilibrato di alimentare. Quindi quello che non è accettabile è che la perdita di credibilità di un'organizzazione come l'OMS, che anticipa i risultati di ricerche non fatte e che soprattutto basa le sue raccomandazioni sulla scientifica, evidenze scientifiche assolutamente insufficienti. Quindi non è tanto una questione di carne, di caffè, di zucchero, ma vogliamo poter contare su un OMS che non mette in discussione, come è successo adesso con la carne, 180.000 posti di lavoro solo in Italia per una cattiva comunicazione, come da lei stessa definita. Sì, non so se cattiva, però troppo labile, perché quando tocchi l'alimentazione devi essere anche molto più preciso a mio avviso, oppure uno dica guardate abbiamo fatto un insieme di studi, non c'è nessuna differenza tra il bacon mangiato a colazione, fritto nell'olio, nel burro, mangiato ogni giorno e il prosciutto crudo che può essere italiano, può essere spagnolo. Non è che sto difendendo solo il Parma, San Daniele o il Toscana. No, certo. Ma il punto è esattamente questo. L'OMS ha utilizzato dei dati riferiti ad abitudini di consumo, questo in quest'ultimo caso, abitudini di consumo di paesi che mangiano prodotti diversi in quantità 10 volte superiori e poi la cattiva, quello che dico, comunicazione ha dato l'impressione che questi dati si potessero estendere a tutti. Così non è, ci vuole serietà scientifica e ci vuole attenzione nell'avere prima il report completo e poi annunciare lo scoop, solo questo. Sì, allora qualcuno mi sta scrivendo su WhatsApp, adesso a parte il fatto che state scrivendo tutti su WhatsApp Allora, che la carne animale, dunque, dov'è che l'ho perso? Dico, i prodotti animali non vanno mangiati, prodotti animali o gli animali, perché il prodotto animale è anche l'uovo. E il latte, no, ma questa però posso dire una cosa, certo. Io non voglio entrare nel tema vegani, non vegani, ognuno fa quello che vuole, cioè, e siamo d'accordo che l'eccesso soprattutto di proteine, grassi animali, c'è la piramide alimentare da qualche decennio, non è che ce la siamo inventata. Altra cosa è dare una comunicazione che rischia di comparare la fetta di prosciutto crudo al fumo di sigaretta, ok? Questo, a nostro avviso, dal punto di vista un po' di comunicazione ci capiamo, non di prosciutti, ma di comunicazione ci capiamo, e questo non ci piaceva. Dopodiché io resto sempre dell'idea, e lo dico col massimo rispetto e simpatia per i vegani, che quella scritta che vidi sul muro di Milano con lo spray non si dovrebbe fare, uccidi un vegano, salvi una pianta, fosse bellissima come senso dell'ironia, perché se andiamo avanti così, allora non mettiamoci anche le scarpe in cuoio, vabbè. Ma non voglio entrare su altri temi. Mi dica solo una cosa, al di là di questo, però, nel tutelare anche un'informazione corretta, seconda maglia, voi dovete anche tutelare i bravi produttori italiani. Qui c'è un'inchiesta sulle aziende olearie in cui il ministro ha detto il ministro Martina che rafforzerà i controlli. Su questo chiariamo che non si può transigere a livello poi nazionale, se vogliamo rivendicare appunto la qualità del Made in Italy su commistioni e frodi. Assolutamente, il rispetto della norma è una nostra garanzia, la nostra migliore forma di marketing, quindi non si transige in nessun modo. Sulla questione specifica, ovviamente bisogna... Pronto? Proprio sulla parte dell'olio mi è caduto, adesso lo riprendiamo, il presidente federale alimentare, anche perché le pesa il tacco del buso, mi scrive uno, vabbè, anche perché c'è un altro aspetto che mi interessava su questo, ed è l'andamento del confronto sul tema del latte, visto che c'era stato anche l'incontro con il ministro Martina l'altro ieri, e volevo capire col presidente Scordamaglia come si era concluso. Da questo punto di vista lo stanno riprendendo, forse ce l'abbiamo, forse sì. Eccolo là. Allora, Presidente, stava concludendo sul tema dell'olio. Sì, assolutamente, le regole ci sono per essere rispettate. Su questa questione specifica è importante che ci siano però dei parametri certi, chimici, standard, per valutare effettivamente quello che è successo. Detto questo, ripeto, massimo rispetto delle regole sempre, è un nostro valore aggiunto. Senta, e per quello che riguarda invece la tensione molto forte tra produttori di latte e aziende trasformatrici, è chiaro che non è che riguardi in senso stretto la sua presidenza, però anche oggi la Coldiretti ha fatto una mobilitazione nei supermercati in attesa del prezzo giusto agli allevatori, visto che la GDO acquista l'85% dei prodotti. Scordamaglia. Certo, bisogna trovare un equilibrio, tutte le due parti hanno ragione, l'industria italiana di trasformazione del latte ha ragione a dire che il latte italiano costa più da qualsiasi altre parti, i produttori, gli allevatori di latte hanno ragione a dire che hanno dei costi superiori, quindi dobbiamo trovare un modo per valorizzare al meglio il nostro latte, farlo distinguere dal resto del latte e dal resto dei formaggi, come si è riuscito a fare già per quelli DOP e IGP, e quindi prendere sul mercato una differenza di prezzo che possa compensare. Mi raccomando, Scordamaglia, perché lì c'è in gioco anche la presenza delle stalle nel nostro territorio, che sappiamo che delle volte hanno anche un ruolo che va al di là del ruolo economico, va anche come ruolo di mantenimento del territorio stesso, penso alle comunità montane e di collina. Comunque grazie, e di una risposta devo dare. Lo sappiamo che il professor Veronesi da anni, abbiamo anche un programma di salute, racconta come le carni rosse possono, se mangiate troppo, fare male. Si stava commentando una comunicazione così generica e fallace, a mio avviso, che nel dire le carni rosse lavorate sopra i 50 grammi aumentano il 18% le possibilità cancerogene, senza spiegare come, dove, qua, sono tutte uguali? A me non sembra. Allora, se fai una comunicazione così delicata che va a toccare, oltre che la nostra vita quotidiana, anche decine di migliaia di posti di lavoro, fai il sacrosanto piacere, come OMS, di non suggerire di mangiare le brioche e di essere ancora più dettagliata. Grazie al Presidente Federale Alimentare. Noi ci risentiamo domani. Da Sebastiano Brisoni, come sempre, un auguro di buona serata. Divertitevi con WhatsApp, che vedo sta prendendo sempre più piede. Comunque ci sarà anche domani, dopodomani, tra tre giorni. Radio 24. La passione si sente.